sé yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Giuro che non mi ricordo perché oggi parliamo di mamme, però l'argomento è questo, abbiamo deciso che oggi si parla di mamma. Si parla di mamma attraverso una lettura mediata, naturalmente, non attraverso la percezione individuale che ognuno ha della propria mamma, della mamma altrui, dell'eterna mamma, dell'immortale mamma, della mamma che passa il suo testimone di donna in donna, che costellano il lungo cammino della nostra vita. Oggi parliamo di mamme particolari, di alcune mammesche icone che sono rimaste infisse nella nostra memoria, di noi che al cinema ogni tanto vediamo rappresentate le mamme. Quando il cinema nel nostro paese racconta la mamma, lo fa con un senso devozionale molto particolare, sa che tocca la scaturigine più profonda e più sacra di ogni percezione, di ogni sensazione, di ogni ragione d'essere, di ogni calibrazione dell'esistenza. La mamma è colei che dà la misura del mondo che abbiamo attorno. Ahimè, forse qualcosa di fisiologico alle nostre latitudini continua a darla per lunga parte l'esistenza dei maschi nostrani. Quindi la mamma è importante, quindi questa mattina diamo un'ampia possibilità di riscontro e di reazione alle mamme in ascolto, a tutte quelle che con le mamme hanno avuto a che fare, con le mamme altrui, soprattutto con le mamme dei loro uomini, tutte coloro che hanno visto la mamma riflessa in questi terrificanti modelli. Chi è? Le zagare, ma purtroppo, Dio mio! Chi è sta vecchia? Che belle! Sono profumate! Soltanto pochi amatori avranno riconosciuto una delle interpretazioni più sublimi della sbavante e moccicosa invadenza materna, fracchia la belva umana, Paolo Villaggio, e allo stesso tempo il pericolosissimo criminale e il suo sfortunato sosia, con i rischi la gloriosa aria terrificante del criminale deve anche dividere la sua terrificante madre, che è Gigi Reder, le Filini, il compagno di Fantozzi, la sua guida malefica, il suo Virgilio nell'oltretomba delle abiezioni impiegatesche, nella versione di Fracchia diventa la madre. Così legame, così profondo, così indissolubile, viscerale, ambiguo il rapporto fra i due impiegati, che in Fracchia diventa la mamma. Una schifosa mamma, una mamma composta di umori, di muco della partoriente mai scrostato di dosso al figlio, che gestisce continuandolo a ingozzare, facendogli pannicelli bollenti, ustionandolo, tenendolo a bada a suon di spaventosi e innominabili clisteri. Beh, questo in fondo è la rappresentazione parossistica, estremistica, di ogni attenzione materna esasperata, di quel cordone ombelicale indissolubile, indelebile, impossibile da strappare, che molte le nostre ascoltatrici rinfacciano ai propri uomini, ai propri compagni, ai propri trudi, ai propri amanti, ai propri compagni, ai propri passeggeri, accompagnatori di momenti d'estasi, dicendo che la mamma in fondo è qualcosa da cui non si liberano mai. Ma loro cosa faranno quando a loro volta saranno mamme? 800 24 00 24. Si calmi, che tanto non c'è. Perché devo parlare con il regista? Dove sta? Ma cosa gli vuol dire? Cosa gli voglio dire? Che ci avevate da ridere sta ragazzina? Che fa tanto ridere? Dove sta il signor? Eccolo là. Signor Blasetti, abbia pazienza. Lei che... Dopo, me lasci passare. Me lasci passare, dico! Scusi tanto, signor Blasetti. Scusi tanto. Ma io stavo nascosta lassù in cabina. Dove fanno... Ho sentito ridere tutte queste risate. Che ci avevate da ridere? Ma ve fa tanto ridere sta ragazzina? Tranquillo. E guardatela, è una ragazzina come le altre. Ho sentito perfino di uno che è una nana, ma... No, no. Ma che maniera è questa? Non ci avete rispetto dei sentimenti degli altri, proprio. Non ci avete nessun rispetto dei sacrifici che uno fa. Ne ho fatti tanti, signor Blasetti, per comprare sto vestitino, tutti questi sacrifici che io non so. Sia tranquilla, signora, sia tranquilla. E quell'altro, signor Annovazzi. Ma sta, signor Annovazzi. L'abbiamo cacciato a caccia. Ha fatto bene, guarda. Lei è... Pensate che bellissime del 51. Anna Magnani già allora riuscì a interpretare il ruolo immarcescibile della mamma, della figlia, perché noi finora abbiamo parlato di mamme e di figli maschi, facile puntare il dito contro la mamma che riversa tutta la sua passione frustrata in un figlio maschio. C'è anche la mamma della figlia, colei che nella figlia appoggia tutte le frustrazioni di lei, artista, ballerina, amante, donna di piacere, non più tale. Nel 51 era semplicemente un provino per portarla a fare il cinema. Ma allora era il cinema, il fotoromanzo, l'edulcorata versione intimista e in fondo carezzevole e provinciale di quello che oggi è il grande mondo della televisione. Allora Anna Magnani arrivò quasi a concedersi sul bordo del Tevere a un terribile Walter Chiari, che in cambio del denaro per comprarsi una lambretta le promise che avrebbe favorito la figlia. Oggi le madri farebbero qualunque cosa. Io per anni ho abituato in uno stabile al cui piano terra c'era un luogo in cui si facevano provini a bambini per entrare, non so, nei tanti programmi televisivi in cui i piccoli mostri eccellono o nella pubblicità. Ricordo ancora il codazzo delle mamme che stazionava e bivaccava nei giardinetti antistanti al mio portone. I padri erano sempre dei poveretti, sempre buttati in un angolo con delle giaccacce a vento o degli abitucci della domenica da paese, buttati lì con un'aria rassegnata ormai. E quell'aria da cornuto rassegnato viscerale che non ha più nulla da chiedere alla vita, stanno lì in un angolo con un sacchetto, con i panini. E le mamme leopardate, fasciate, scosciate, ungolate, stanno lì pronte a precedere le figlie in quella sorta di squallido mercimonio, erano lì pronte, divaricatrici del frutto del loro ventre o anche del loro ventre stesso, pur di avere una possibilità di accesso al grande mondo dello spettacolo. Beh, questa mattina con il nostro Giuseppe Sansonna scandaglieremo il mondo delle mamme rappresentato nel cinema italiano e voi ci direte, chiamando all'800 24 0024, quanto ci trovate dei punti di contatto con la vostra esperienza personale. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto mettiamo a confronto con un perigliosissimo tentativo di collazione le due mamme, il figlio mio, la mamma che poi è un uomo vestito da donna e quindi ancora più bieca e perversa la figura materna rappresentata, mamma di Fracchia, e Anna Magnani, la mamma di Bellissima. In Fracchia la belva umana, la mamma incarnata dal straordinario e terribile Gigi Reder è l'unico punto debole di Villaggio versione belva, infatti manda la sua controfigura impiegatesca proprio per sottrarsi all'abbraccio tentacolare della madre. Per cui divenne un criminale, fra l'altro. Certo. La scaturigine e l'origine della sua criminalità è la mamma. Se noti antropologicamente nella mafia si dice mamma comanda, picciotto esegue, quindi la mamma identificata con la mafia anche antropologicamente. È curiosa questa analogia, anche in un film popolare poter riscontrare questa curiosa analogia. E invece in Visconti abbiamo una Magnani pre-Debord che inserisce a viva forza la figlia nella società dello spettacolo a qualsiasi prezzo, a qualsiasi costo, dal suo caseggiato popolare del Prenestino vuole a tutti i costi che la figlia entri nel mondo di Blasetti. Blasetti invece la vuole utilizzare solo perché la vede piangere nel finale, interessa avere un volto, quindi c'è anche la spietatezza già del mondo della celluloide già nell'immediato dopoguerra. Prima ancora di Lele Mora c'era Walter Chiari, che era una versione molto innocente, se vogliamo. No, mi fa pensare però che le vestali che si stracciano i candidi paramenti nei confronti dell'abietta televisione, sembra che abbia cambiato radicalmente l'humus relazionale degli italiani. Ma se già negli anni 50 Visconti con tale lucidità vide chiaramente tracciati tutti i confini dello star system attuale, in realtà la televisione ha fatto altro che prolungare, essere la coda lunga di un atteggiamento nei confronti della realtà e della realtà raccontata attraverso le varie macchine delle meraviglie, che allora era il cinema, oggi la televisione, è perfettamente combaciante. È come se lo spettacolo garantisse una super resistenza a cui la madre non può resistere, la figlia deve avere un riscatto, deve riscattare la sua vita anonima solo perché non è sullo schermo. Questo è l'assurdo già allora riscontrato in Visconti. E già allora però si vedeva che in realtà questa mamma nei confronti della figlia vede la figlia come un prolungamento, come una sorta di trappola verso la decadenza, la morte, la fine di se stessa. In realtà lei civettava con Walter Chiari sul greto del Tevere, sulla Marrana, e c'è stato un attimo in cui lei è quasi compiaciuta all'attenzione di questo giovincello pappone scapestrato, però se ne sottrae, quindi c'è ancora una sottigliezza, c'è anche un... Però gliela fanno usare un pochino. Sì, in qualche modo, però c'è ancora una sorta di innocenza di fondo, non c'è la brutalità. Va riscontrato questo, perché comunque siamo sempre nel 51, la guerra è finita da poco, si è ancora intrisi di una certa sofferenza generale che rende tutti più solidali, quindi comunque i personaggi sono ancora marchiati dall'innocenza. Antonella, buongiorno. Buongiorno. Sia sincera e sia spietata. Sarò molto sincera e anche molto spietata, perché io provengo da una famiglia all'interno della quale non è che abbia avuto dei grossi conflitti, né con la mia famiglia in generale né con mia mamma in particolare. Ma sta parlando con un viva voce per caso, Antonella? Sì. No, si sente malissimo, per favore parli col telefono. Ok. Sì, si è spenta addirittura, troppa grazia. Abbiamo chiesto una competenza tecnologica ad Antonella che andava oltre le sue possibilità. Antonella, adesso che tanto mi sentirà la radio, riaccendo il suo telefono, ma non con il viva voce, con la normale possibilità di ascoltare, quindi con piacere sentiremo la sua spietatezza. Intanto passiamo a Franco. Franco, buongiorno. Buongiorno, io chiamo da Ravenna. Non si incasini col telefono anche lei. Ecco, no, Dio mio. Adesso sono persone più niente lì. Io volevo parlare... Che ha fatto? Sente malissimo. Ah, niente di che. Ha messo viva voce? No, sono alla radio, cioè al telefono normalmente. Ecco, benissimo, perfetto. Allora, io seguendo il calcio giovanile Serie A, ho notato che quello che lei ha detto sulle audizioni nel suo palazzo si ripercuotono nel mondo del calcio. Ma sono le mamme o i papà in quel caso? I papà portare i figli vengono con la tuta da lavoro e le mamme sembra che vengono alla boutique. Ma sarebbero anche disposte alla... Scusi, Franco, sarebbero disposte all'intima d'azione pur di mettere il figlio nel vivaio dei calciatori? Guardi, le dico solo questo. No, dica senza pudore. Avendo a che fare con degli ex calciatori che fanno gli allenatori dei figli, ci sono degli sguardi, degli atteggiamenti che non voglio essere cattivo, ma penso che di tutto. Cioè gliela promettono, su, diciamolo in parole complice. No, gliela danno. Ah, pure? Sì. Ne ha prove, della d'azione ci sono prove concrete. Guardi, io comincio a essere anziano. Purtroppo non ero con loro in quei momenti, ma insomma... Si è fidato dei racconti. Anche, ci vedono anche chi viene schierato in campo la domenica. Ecco, quindi alle spalle di un calciatore c'è sempre una mamma che ha fatto l'estremo sacrificio, o potrebbe esserci? Intendiamoci. Però a volte capita. Sansonna, che tu di calcio te ne intendi, avendo fatto un film Zemallandia, quindi conosci questo mondo. Dell'intima d'azione ne hai mai sentito parlare? Ma di questo io soprattutto ho fatto l'arbitro quando avevo 15-16 anni nei campi. Quindi eri soggetto passivo di intime d'azione? No, ero di ben altro, perché erano delle rinni scatenate, le madri sugli spalti, perché mia madre magari mi accompagnava e quindi nell'anonimato si rifugiava in tribuna ed era circondata da queste madri di calciatori assatanate che sfogavano le frustrazioni di una settimana terribile, probabilmente con i mariti, per chissà quali motivi, sfogando un odio, una rabbia, un livore fatto di bestemmie, di insulti ferocissimi, sanguinari, dedicati a questo sedicenne in giacchetta anche nera. Loro ce l'avevano con Diaz, povero generale. Con Diaz, ma soprattutto con me, avrebbe voluto la mia testa, avrebbe voluto evirarmi e decapitarmi questo ragazzino sedicenne che ero io in giacchetta però nera. È singolare, io ho sempre pensato, nella mia ignoranza crassa del calcio, che il mondo del calcio fosse un mondo estremamente maschilista. Questa sorta di iniezione materna non la sospettavo. No, ma era la madre che portava il figlio come vincitore, come potenziale vincitore, e quindi tutto ciò che nuoceva al figlio andava eliminato. Questa cadeva la domenica mattina, il giorno della partita. Sì, la domenica. Perché c'era stata una sconfitta sul campo coniugale il sabato sera, forse. Di sicuro, reiterata sconfitta decennale, direi. Perché, sì. Portava la madre la domenica mattina a porre tutta la sua ansia, la sua furia e la sua lussuria nella difesa del figlio. Leonardo. Sì, buongiorno. Ma io volevo intervenire sul discorso, sul film di Visconti, di Bellissima, uh-huh. Che alla fine la Magnani rifiuta di figlia quando anche decidono di dargli il contratto. Quindi moralmente si rende conto del valore della figlia, diciamo. E beh, oddio, è una povera scimmietta brutta come la fame. Sì, ogni scarafone è bella mamma sua, ma esatto. Nemmeno sapeva però cantare. Alla fine, lei si rende conto che moralmente si era spinta più in là, diciamo, no? Ma erano anni in cui la morale era importante, se non si finiva con un finale moraleggiante il film rischiava di non essere accettato dalle maglie strette della censura. Solo per questo, quindi, no? Solo per quello. Perché adesso mi viene in mente un'altra figura di madre, che è la mamma, ad esempio, della Noemi nello scandalo con il nostro presidente. Ah, sì, sì. Che, ecco, in realtà è una figura completamente differente. Beh, io vi ricordo. Mi ricordo, però, anche lì c'è stata una costruzione, la famosa copertina di Chi, in cui la mamma e il papà si baciano guardando con la coda dell'occhio la fotografia per dimostrare che era una famiglia comunque unita. Quindi le mamme sono disposte a qualsiasi sacrificio per proteggere, per incrementare il successo dei figli. Sansona, sull'appunto, sul lieto fine di Bellissima, il fine etico. Sì, io sono d'accordo con te in parte, però io credo che ci sia anche, come ti dicevo prima, una innocenza di fondo che c'era comunque nei primi anni 50, che quindi non è solo un'imposizione di censura il lieto fine, ma tutto sommato si riferisce anche a una a un mutamento antropologico ancora non avvenuto, e quindi siamo pre l'elemore. Allora, andiamo avanti nell'osservazione invece dei mutamenti antropologici del rapporto mamma-figlio nel cinema italiano. Ma dico, sei de goccio, sei? Questa è casa tua, no? Tu mi devi aver preso per una befana. Guarda che io le scatole non l'ho rotte mai a nessuno, sono stata sempre simpatica a tutti. C'ha fame? Stamattina mi sono mangiato un tosto di pane con i papati. Che hai detto? Ma che hai detto? Ma che sono ste parolacce? Tu devi parlare come parla tua madre, mica come quei quattro bigonzi laggiù. E te meno, sai. E fai piangere il tuo violino tra le dita. Dico, sai ballare? Suona anche pochetto. E c'è, c'è, c'è. Perché? E c'è, c'è, c'è. Cammina, vieni a ballare tango con tua madre, vieni. Ma che te vergogni? Andiamo. Suona, suona per me. Ma... Ecco, qui siamo nel paradosso. Mamma Roma, che di professione è prostituta, quando è mamma riacquista una sorta di sua totale radicale castità con il figlio. È una figura tipica da romanzo, ma anche da realtà. Tutti abbiamo avuto ai tempi delle scuole un nostro amico che aveva viveva solo con una mamma particolarmente appariscente, che non si capiva bene che lavoro facesse, che era molto gentile con noi, che era anche l'ispiratrice di innominabili nostri atti. E Pasolini l'ha resa meravigliosamente nel suo culto della marginalità in Mamma Roma. La prostituta che si riscatta, se ammesso debba esserci un riscatto, che ritrova una sua forma cristallina di inattaccabilità da tutte le storture dell'amore materno di cui abbiamo parlato finora, quando è mamma. Il figlio, che è Ettore Garofalo, che ha quest'aria caravaggesca da bacchino malato, questo viso che poi diventerà un Cristo di Mantegna quando muore nell'ultima scena sul letto di contenzione, è l'elemento, il figlio per Mamma Roma, che innesca il suo riscatto, la sua possibilità di passare dalla strada a una condizione piccolo borghese, a un appartamento dignitoso, che però tutto questo avrà per Pasolini è impossibile, quindi il finale sarà tragico, si finirà alla Mantegna su questo tavolaccio di questo ospedale. Tra l'altro, una delle scene che più mi ha scioccato da bambino, mio padre non mi faceva vedere i cartoni animati giapponesi degli anni 80 perché erano troppo violenti, però mi faceva vedere Mamma Roma, e quindi questa scena mi è rimasta folgorata. Il ragazzo morto è terribile nella luce, in quel bianco e nero di questo ragazzo liquefatto di cera ormai, che non ha più, morto, distrutto, che è giusto che quello sia il suo destino, però, perché era figlio di puttana e così doveva finire. E anche questa scena del tango è molto di Violino Messicano, è molto tenera, anche c'è una sorta di iniziazione del figlio, sì, ma molto soffuse. Questo erotismo, questo Edipo è risolto in maniera molto leggiadra, molto dolce. Non c'è Visconti, non c'è la caduta degli dèi, non c'è la brutalità e la violenza nazista viscontiana. 800 24 00 24, avete notato come, osservando già pochissime e semplicemente accennate per i limiti del tempo che noi abbiamo, figure di madre del cinema italiano, che voragini apriamo nel nostro immaginario, nel nostro rimosso, nei nostri ricordi, nella nostra esperienza, o in quello che spero che diciate fra qualche istante dopo l'informazione dalla borsa. Melog 2.0. Andrea, la mamma se ne va. Andrea, senti, adesso quando andiamo di là, quando io tossisco, tu fai... Capito? Andrea, la mamma se ne va. La mamma parte per un lungo viaggio. Poi piange lui. Questo è Nanni Moretti nel suo primo film, Fortunato, io sono un autarchico. Cosa sta succedendo, Giuseppe Sanson? Qui c'è il marito un po' bamboccione che innesca il piccolo figlio per cercare di trattenere... Tenta un ricatto, sì, un ricatto emotivo terribile, innescando il figlio contro la mamma per non farla andare via, no? Quindi fanno questa pantomima nel tinello, la preparano, poi al momento della recita il bambino piange ma non sortisce effetto, e allora è Moretti che torna bambino e si butta ai piedi della madre piangendo e diventando più bambino, esasperando il melodramma. Devo chiarire un equivoco sorto su Facebook. Io questa mattina, come sempre, metto l'argomento a trasmissione, avevo scritto nella mia riga di status: oggi le mamme del cinema italiano sansonizzate, mi sembrava ormai un neologismo accettabile visto che Sanson è qui da mesi, ma tutti invece mi scrivono parlando di Yvonne Sanson, la mamma del melodramma italiano. Chiarisci questa singolare omonimia. Sì. Yvonne Sanson, compagna di Amedeo Nazzari in Catene, Tormento, in molti melodrammi materazziani, non è mia parente, non c'entra nulla. Tu sei Sansonna. Sansonna. Però esiste. Però è curiosa. È curiosa perché veramente era una delle mamme, sì, tipiche del melodramma italiano. No, Matarazzo è stato un grandissimo genio del melodramma, e quindi faceva sempre questa madre in situazioni drammatiche, estreme, che poi si ricomponevano nel finale con un grande profluvio di sentimenti, con Nazzari, protagonista, Entorio, anche amabile protagonista. Ecco una mamma, Augusta. Buongiorno. Faccia sentire la sua voce di mamma in questa cinica trasmissione in cui osiamo il ridere, questa adamantina sostegno della nostra esistenza. D'accordo. Allora, io ho già spiegato alla signorina, io ho una mia teoria... Non so quanto. Sarebbe Fabrizio Intonti. Eh? No, avanti. Si sente? La sì, voce? Sì, sì, perfettamente. Dunque, dicevo questo: noi mamme siamo accusate di aver cresciuto dei bamboccioni. Io ho 61 anni, quindi sono una mamma abbastanza matura, con dei figli grandi. E declino completamente questa responsabilità, perché noi madri siamo responsabili dei nostri figli, sicuramente. Ne abbiamo fatto ottimi bambini, ottimi adolescenti. Ma nel momento in cui sono diventati adulti, la responsabilità della loro crescita come uomini è delle donne della loro vita, non più della mamma. La mamma non può far diventare... Ma vede, lei apre un conflitto, però lei vede, sta aprendo un conflitto con le donne dei suoi figli. Sicuramente sì. No, faccia pure, però a me piace vedere scorrere il sangue, però è chiaramente portarle sul terreno di battaglia. Le donne dei suoi figli che l'accusano di averli legati, avvinti da un affetto bavoso da cui non si libereranno mai, in questo momento sono le sue avversarie. Lei bavoso dice... forse è eccessivo, no, rigoloso potrebbe rendere... Lo sa perché dico bavoso? Perché mi dà l'idea di questo liquido amniotico che continua a prolungarsi come fosse un mastice per tutta la vita, da cui non ci si lava mai. Sì. Posso però finire il mio pensiero? Prego, no, mi fa piacere. Ecco, allora, praticamente, continuando nel mio percorso, diciamo, ho capito che sono le donne della loro vita a renderli uomini, perché è un ruolo che non può competere alla madre, cioè il confine della madre finisce con l'adolescenza. E a maggior ragione tutte le crisi matrimoniali che ci sono in questo momento, non solo in Italia ma anche nel mondo, è dato dal fatto che le donne non sanno svolgere il ruolo di moglie. Io sono moglie da 37 anni, con mio marito ci siamo conosciuti che lui aveva 18 anni, stiamo ancora insieme, quindi sono passati oltre 40 anni che stiamo insieme, 42 anni per l'esattezza, e è stato un lavoro lungo, faticoso, importante, però è un lavoro che non potevo delegare alla madre. Ma forse oggi le donne vorrebbero lavorare donne, un po' meno. Cioè, il problema non sono i bamboccioni, meglio. Sono le bamboccione, perché io oltre ad avere dei figli maschi ho anche una figlia femmina, che sinceramente trovo una bambocciona sotto certi aspetti, perché non si assume le responsabilità delle sue relazioni. Cioè sono le donne quelle che formano gli uomini. Beh, oddio. Quindi se è sempre stato così. In parte sono d'accordo, in parte un po' meno. Io mi sento, sono grato alle donne. Ho sempre detto, dietro a un grande uomo c'è una grande donna. Sì, mancano sì. Le grandi donne in questo paese. Sono tutte ragazze. Io inorridisco quando sento parlare di una quarantenne o di un quarantenne dicendo è un ragazzo. Lo trovo vergognoso. Questo, su questo ha ragione, che esiste. Che però manchino le grandi donne e non sono tante. Io, guardi, frequento donne che mi danno un grande complimento, mi aiutano, mi tolgono curiosità, ci sono quando servono, ma compresa anche mia moglie, cioè non vedo... Non sono delle guide spirituali, sono delle compagne di gioco. Non eh sono sì, delle... ma perché va da gusto giocare, mica è brutto. Non sono delle compagne di vita. Sì, ma la vita è fatta anche di gioco, a me piace avere delle compagne di gioco, mi diverte. Pure a me. Mi fa vivere io meglio. Io ho tantissimi amici. Cioè non vorrei una cosa diversa. Una sacerdotessa accanto per tutta la vita. Che mi impartisca le massime di esistenza, ma sa che noia, non saprei che fare. Ma non è quello il discorso, cioè ci sono i momenti crudici e ci sono i momenti invece importanti, impegnativi, i momenti di crisi. Le donne sicuramente sono anche compagne di gioco migliori rispetto a come eravamo una volta. Questo però non lo in so. Questo momento. Io ho visto una volta e vedo ora, dico che però sì, c'è stata un'evoluzione. Però crollano immediatamente a qualsiasi crisi. Diciamo che, guardi, io mi rendo conto anche, l'uomo piagnone, rompipalle, depresso, non fa piacere a nessuno, ci vuole una dose di affetto, di amicizia, di sopportazione. Quando noi ci crogioliamo nelle nostre depressioni siamo insopportabili, quindi siamo gratissimi alle persone che ci sopportano, ci stanno a sentire, ci coccolano, ci gratificano, ci fanno sorridere, ci fanno... Questo è una grande missione e sono gratissimo a tutte le donne che ancora svolgono nel mondo questa missione, ma anche delle donne che ci danno il senso di gravità dell'esistenza, ne possiamo anche fare un po' meno, secondo me, non lo so. Parlando della donna Angelo del Focolare. Ma guai al mondo, ma io non vorrei né un focolare né una donna Dio, Angelo. È lungi da me, credo che si capisca anche dal tono di voce. Io sono battagliera, non sono una persona che si crogiola nelle sue... Sì. E quindi quale donna del cinema italiano? Deve essere un sostegno nel momento delle difficoltà, non essere assente. Lo so. Non essere lì... Però uno deve anche capire, non deve avere un ruolo di una mammina e continuare a tenerlo bambino. Sì, deve ho capito. Essere una compagna di battaglia. Guarda, io lo dico contro l'interesse di tutti gli uomini che stanno ascoltando. I momenti di difficoltà sono molto spiacevoli da condividere, non si può chiedere l'eroismo. Quando siamo in difficoltà cominciamo a puzzare e mi rendo conto che non dà fastidio a nessuno starci vicino. Se richiedono virtù eroiche, se una moglie, una compagna, un'amica, chiamiamola come vogliamo, a virtù eroiche ci sta vicino in quel momento. Ma lo considero un regalo, lo considero un extra. L'uomo non dovrebbe mai avere momenti di difficoltà e non dovrebbe mai appoggiarsi a una donna. Questo è una mia detestabile maniera di vedere l'esistenza, forse non condivisibile. Volevo che tutti, operai e operai, salissero qua sopra assieme a me e che uno alla volta raccontassero come ci si sente a fare 50 ore di fabbrica a settimana. Questi vogliono farci diventare come delle macchine. Noi abbiamo bisogno di parlare, abbiamo bisogno di comunicare e mi rivolgo a voi, mamme, perché lo so che tra di voi ci sono delle mamme. Dovete dire ai vostri figli che la fabbrica è brutta, che la fabbrica fa male. Noi non possiamo tollerare questa cosa! Dobbiamo liberarci! Ci trattano come schiavi! Forza, compagni! Ripagliamoci al padrone! Sai che Marrico per essere coraggioso era coraggioso, gli veniva naturale, gli veniva. Come far innamorare gli altri? Quel giorno in mezzo a tutto quel casino bastava guardare le donne. Giuseppe Sanson, Scamarcio, mio fratello, un figlio unico, è il fratello di sinistra che tocca, come sempre la politica fa, soprattutto nei momenti di chiamata raccolta, perché servono persone, servono consensi, tocca le mamme. Le mamme sono equamente divise tutte le forze politiche. Sì, il film è appunto Mio fratello e figlio unico di Lucchetti del 2006 e ci sono questi due fratelli che si rapportano alla madre in maniera diversa. Uno è quello bello, seducente, giusto, che sta anche dalla parte giusta, in quel momento, cioè quella che è considerata la parte giusta, e fa questo discorso anche un po' demagogico davanti alla fabbrica, e invece Germano fa la parte del brutto anatroccolo, di quello che per controdipendenza e per attirare un po' di attenzione su di sé, che sono tutte avvocate dal fratello Bello, fa il fascista. Il brutto è fascio. Sì. Brutto è fascio. E poi è la storia di un giornalista, di Pennacchi, che ha raccontato la sua storia. Nel libro Il fascio comunista. E quindi c'è questa madre che è totalmente sedotta dal fratello maggiore, da quello che crea. Purtroppo il fratello di Pennacchi, che era un caro amico, un caro collega, è morto improvvisamente proprio poco tempo fa. Improvvisamente, una mattina è morto. Quindi c'è questa doppia dinamica, questo figlio che cerca di farsi accettare, e quindi crea un po' di sconcerto, ma non crede realmente in tutte le azioni che commette, in tutte le azioni fasciste che commette. Ed è curiosa come ambiguità questo rapporto con la madre, che deve scegliere fra due fratelli, che in qualche modo sceglie, perché comunque ha più affetto verso l'uno. Sentiamo Andrea. Andrea, buongiorno. Buongiorno, mi spiace abbassare il volo della trasmissione. Ma noi siamo abituati a planare e a svettare, quindi vediamo un po'. Ho ascoltato prima il commento e soprattutto il frammento di Bellissima, che peraltro non avevo più visto come film, l'ultima volta l'ho visto che avevo 12 anni, adesso ne ho 36, quindi insomma ne sono passati un po'. Nel frattempo sono un disgiocchi in pensione, che per un 4-5 anni si è riciclato presentando delle manifestazioni canore e dei concorsi di bellezza. E allora si è aperto un cassetto della memoria quando ho sentito quel frammento di Bellissima e sentito gli interventi. Lei prima ha usato un termine che mi è piaciuto, intima d'azione. Sì, per usare un po' di poesia anche in quel gesto, ecco, che tante soddisfazioni ci dà, ma in certe occasioni è meglio non dire che è una cosa che sempre va fatta, perlomeno per smuovere ciò che in realtà dovrebbe essere smosso attraverso altri tipi di frizione. Allora guardi, io da appunto addetto ai lavori in quel periodo in cui ho presentato determinate manifestazioni, che naturalmente non dirò quali sono, insomma, voglio dire, vi assicuro che è molto più facile trovare una mamma disposta all'intima d'azione che non una figlia, perché comunque... Quindi è la conferma dell'innominabile legge della maniglia. Sì, assolutamente. Assolutamente, perché comunque vede, poi non voglio entrare in... Chiappini mi fa così con la mano e non capisce. La legge della maniglia, dovresti saperlo, è quella che nell'intima d'azione antepone la madre alla figlia, prima la madre poi la figlia. È una cosa da orrenda, però penso che sia nota questa facezia studentesca e goliardica. Sì, vabbè, finiamo così, dobbiamo la linea al traffico. Sì, no, io la rima maniglia figlia la sapevo. No, ma sono ragazzi giovani, Chiappini, poverino, un ragazzo che è passato direttamente dalle scuole elementari al matrimonio, quindi non ha avuto delle fasi deprecabili nella sua vita, è giusto che insegniamo anche il lato oscuro della forza. Brevemente vado a chiudere. L'unica cosa, senza farne un'analisi morale, perché comunque io da single... Lei usufruiva di queste intimidazioni? 25-30 anni, voglio dire, ci posso anche aver sguazzato. In percentuale, possiede dare dei numeri? Diciamo su 10. Oh, mamma mia! Su 10, quanto erano disposte all'intimidazione? Di mamme? Sì, su 10, in media. Diciamo, a livello di un concorso di bellezza, diciamo che possono essere sopra il 50%. Ecco. Quindi la metà sono pronte a darla per la figlia? Eh sì. Secondo me sì. Beh, questo ci fa molto piacere, perché in effetti è qualcosa che conforta le nostre attività future. Un domani che non faremo più la radio potremo andare a posare le nostre stanche membra, a fare i conduttori di concorsi di bellezza in qualche paese, e chiederemo alle Proloco se ci danno questa possibilità. La ringrazio di questa informazione che mancava alle nostre esperienze. Melog 2.0. Franchi, perché oggi mi hai portato qua? Dove? All'ospizio. All'ospizio? Eh? Ecco, vedi mamma, tu c'hai l'abilità di farmi incazzare a me. Ma che c'entra l'ospizio? Ma che è un ospizio questo? Franchi, non t'arrabbia, non t'arrabbia, mamma. Non t'arrabbia. Vedi mamma, noi lo facciamo per te, per il tuo bene, per il tuo avvenire, accudita, servita, senza badare a spese. Ma che credi, che ti tengono gratis? Sì, sì, va bene, ma non t'arrabbia, ti fa male a mamma. E chi è arrabbiato? Io rido. Ridi pure te, mamma. Siamo tre piccoli porcellini, siamo tre fratelli, mai nessuno ci dividerà. Sorella, noi siamo qui, mamma vuole sta. Ecco sorella, questa è la valigia di mamma. Ciao mamma. Ciao Frankie. Ciao mammino. Mannaggia che te possino. Resterei pure io qui con te. Ciao. E invece a me mi tocca ritornare a Roma, ma. Ciao. Ciao. Ciao bello. Addio Frankie. Ma che addio? Oh. Mamma, che addio! Trattatela come una regina! L'infame Alberto Sordi, nella più infame delle vendette verso questa povera mamma, apparentemente del tutto innocua, la porta la seppellisce all'ospizio perché deve andare in vacanza, ce la fare i fatti suoi, con dei figli orrendi, con una moglie terrificante. E qui Sordi esibisce il suo essere il figlio per antonomasia del cinema italiano, con tutta la gamma di espressioni possibili, dal patetismo, dal ritornare bambino, dal farsi poi cinico, dall'impugnare invece l'autorità parlando con la suora, trattatela come una regina, quindi per impugnare anche il proprio potere. In realtà la porta in un posto orribile, si vede. Che, lui sa benissimo essere un postaccio affidato a queste suore aguzzine. E quindi c'è tutta la gamma di questo appunto bamboccione cresciuto, ma che poi recupera un po' il personaggio che Sordi ha sempre fatto, anche nei Vitelloni c'era questo rapporto patetico con la madre, la sorella, c'è questo... Che gli presta il vestito per il martedì grasso. Campa sui soldi, un Vitellone invecchiato, questo Sordi ha dato una sintesi profonda della maschera italiana, lo sappiamo, e quindi anche nel rapporto con la madre. Ma il recidere il suo cordone ombelicale con la sua striscia bavosa e lumacosa dell'humus materno, dell'amnios materno, scusate, è compiuto attraverso un atto di estrema vigliaccheria. La seppellisce in un ospizio, ha nemmeno il coraggio di dirglielo in faccia, e dice trattatela come una regina, sapendo che in realtà la tratteranno come un animale recluso. Il pezzo che preferisco proprio è quello addio Franchi, che fa che sibila la madre, che capisce che è finita, sì, e lo ferisce, è già lì nell'oltretomba, la madre ha già varcato la soglia dell'inferno. Antonella, mi scusi, l'abbiamo finalmente recuperata. Eccola, sì, qua. Grazie. Era la signora del viva voce. Sì, sì, grazie comunque che mi avete richiamato, mi avete dato quest'altra possibilità. Ecco, io volevo raccontarvi la mia esperienza, io ho 41 anni e ho sempre vissuto un rapporto piuttosto conflittuale senza grosse tragedie, diciamo così, con la mia famiglia e in particolare con mia mamma, che durante tutto l'arco della mia vita non ha mai assecondato più di tanto i miei desideri, quindi a me fanno un po' ridere... Beh, il compito delle mamme è quello... Sì, sì, ho capito, però io di questo devo anche in parte ringraziare mia mamma, perché poi nel momento in cui io molto tenacemente ho portato avanti le mie scelte, devo dire che difficilmente poi ho dovuto ricredermi dalle scelte che io ho fatto, quindi le mie scelte erano molto molto più motivate che non nel momento in cui una mamma dice sì, questi sono i tuoi desideri, porta avanti pure tutto quello che ti senti. Quindi magari c'è stato un periodo di grande frustrazione nel momento in cui, specie agli inizi, io magari volevo fare delle cose da molto giovane. Ma quali erano questi desideri che sua madre le bloccava? Ma erano cose riguardanti i miei interessi, magari la voglia anche di avere un'indipendenza da giovane, perché adesso magari a 40 anni uno sta ancora in casa, io a 18 anni già me ne volevo andare a stare per i cavoli miei, e quindi per una famiglia che abita in provincia, ancora legata a certi... Quindi lei è grata a sua madre di essere stato ostacolo ai suoi desideri, perché ne era acquistato piacere, sapore e spessore, proprio perché sua madre gli negava. Quindi alla faccia di sua madre lei si faceva le sue cose e diceva, beh, vedi, tu me le vieti, io le faccio doppiamente piacevole. Esatto, e nonostante le grandi fatiche, perché poi voglio dire, se adesso paragono i miei 20 anni ai 20 anni delle persone di adesso, dico, ragazzi, gli anni passano, invecchiamo, le mamme invecchiano, i capelli imbiancano e via dicendo. Pasquale Squitieri, buongiorno. Buongiorno amico mio. Ci ha chiamato Squitieri, che è noto regista, perché deve dire la sua sulla mamma. Vediamo cosa deve dire. Io l'ho detta in un film che si chiama Atto di Dolore, un film del 1990, sì, che riportava una storia vera, la storia di una madre milanese che uccide il figlio tossicodipendente. Che succede? Che scopriamo che in Italia ci sono stati 36 casi di omicidi. Era Claudia Cardinale la protagonista. Sì, Claudia Cardinale, che vince il Festival di Montreal con questo film, eccetera. Questo film che è obbligatorio nelle scuole medie francesi. Allora, il problema qual è? È che lei sta analizzando molto bene. c'è una madre bellissima che esce dal dopoguerra, cioè esce dai libri di Malaparte, esce dalle famiglie che vendevano i figli agli americani, cioè, che cucinavano, e cucinavano una bambina con la coda di sirena per farli contenti. Esatto, capito? Quindi usciamo da un disastro in cui i valori sono saltati tutti. E infine Luchino non è che accontenta la censura, Luchino manda un messaggio, non facciamo così, manda un messaggio a noi italiani. Messaggio che non viene accolto da nessuna parte, per me che faccio cinema da 40 anni, ma ne sono passate di mamme che portano i figli, ma anche di padri. Senta, Squittieri, se lei dovesse oggi fare un film sulla mamma, su una mamma, sì, che taglio darebbe? Guardi, io sono arrivato a una considerazione, perché sono veramente vecchio, che tutte le donne che ho avuto io, le mie amanti, le mie mogli, eccetera, sono state mia madre. Cioè noi stiamo distruggendo il ruolo antropologicamente di base della maternità. In realtà il matriarcato è stato sostituito da un maschilismo anche religioso, che poi non ha dato all'uomo quella sicurezza nella vita che la madre dà. Il problema è questo. Ne parlavo ieri appunto con alcuni amici del cinema, alcuni sceneggiatori. Se io dovessi fare un film oggi su una madre, farei la storia di un amante che tratta il suo amato come un figlio, gli dà il piacere, gli dà il giocattolino, gli dà la cosa, gli dà il consenso, oppure gli dà la lite, gli dà la discussione. Beh, come diciamo, Squittieri, nella modesta esperienza ogni uomo è la situazione ideale, uno si sente tranquillo, non vorrebbe altro dalla vita, è grato alla generosità della donna che riesce a simulare in maniera così sublime tutti questi aspetti della femminilità, delle quali forse farebbe anche a meno, ma in nome dell'uomo che in fondo anche lei gode nel vesseggiare e far star felice, in fondo ci dà queste illusioni. Quindi la donna, quando simula e ci illude di essere anche mamma, in fondo fa un piacere a noi e quindi siamo a lei grato. Grazie Sansonna, grazie Fabrizio Intonti, grazie Alessandro Chiappini e ci sentiamo domani senza mamme. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22.